rispondi alle domande. L'autore inizia il testo così: se tu e io ci guardassimo in faccia, lettore, io non so cosa vedrei. A chi si rivolge l'autore? A un alunno come te? A quelli che non conoscono la sua storia? A un lettore che solo lui conosce bene? A tutti quelli che leggeranno il suo testo. Tu sei misterioso, sei tutto nascosto nella diversità. Che cosa intende dire l'autore con questa affermazione? Questo autore non conosce chi legge il suo testo, ogni lettore è differente dagli altri. Questo autore sa che il lettore vuole rimanere in ombra e non essere riconosciuto. Questo autore non può ricordarsi di tutti i lettori che lo hanno incontrato dopo aver letto i suoi libri. Questo autore si lamenta di non poter conoscere di persona tutti i suoi lettori. L'autore scrive anche: quello che vedresti tu, eccolo qua. In base a quanto dice l'autore nella parte introduttiva, chi ti troveresti davanti agli occhi? Un signore adulto? Un bambino, un ragazzo, un uomo giovane. Da quale informazione lo capisci? Leggendo il titolo e la parte introduttiva, puoi aspettarti che il racconto parli quasi sicuramente di alcune cose. Indica quali. Parlerà di che legame c'è tra il naso e il processo, di un pittore che dipingerà un ritratto, di che cos'è successo al naso, di un incontro dell'autore con alcuni dei suoi lettori.